24 mattino. Sono le 8 e 15 minuti, eccoci qua, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Alessandro, ben ritrovata a te, direi. Eccoci, sì, sì. Ieri sono anche un po' così nervosita che non c'eri. Addirittura innervosito. A sorpresa ho trovato un altro conduttore. Stiamo scherzando. Allora, figurarsi se Deborah Rosciani, malata di shopping compulsivo, no. non doveva concentrarsi sui saldi. Sì, perché tu non li attendi con trepidazione. È che tutte le volte che ci sono queste cose tu ne parli, giustamente. Giustamente, forse... un po' per dare delle indicazioni ai consumatori, un po' perché ovviamente anche io attendo questa stagione con trepidazione. Infatti la tua attenzione aumenta, come... i saldi. Siamo tutti saldi. Qui. Allora, siamo tutti un po' emozionati, anche i commercianti immagino che attendono di capire se possono salvare una stagione che non è stata delle più felici rispetto agli ultimi anni. E allora, domani iniziano i saldi anche a Milano, in alcune regioni, Campania e Basilicata, la corsa all'acquisto è già iniziata, entro la fine della settimana comunque cominceranno un po' in tutta la penisola, per ultime il 10 e il 15 luglio la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano. Quest'anno, dicevamo, il clima che tradizionalmente accompagna l'attesa dei grandi sconti è sicuramente un po' più freddo, come possiamo definirlo, a prescindere dalle condizioni meteorologiche vere. I commercianti sperano di salvare una stagione che è stata piuttosto penalizzata dalla crisi economica. Tra i consumatori non c'è un grande entusiasmo, allora cerchiamo un po' di capire qual è la vigilia dei saldi quest'anno con Roberto Polidori, che è vicepresidente nazionale di Federmoda Italia, Confcommercio. Polidori, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei. E allora, come tutte le stagioni, chi aveva rimandato gli acquisti potrà approfittare dei saldi di fine stagione, tutti gli altri andranno a caccia di qualche occasione. È un atteggiamento che però quest'anno, secondo quello che dicono le associazioni dei consumatori, sarà un po' orientato alla prudenza. Polidori, cosa ci dice, quali sono i vostri calcoli, quanto spenderà ogni famiglia quest'anno nei saldi? Ma indubbiamente il contesto economico di recessione determinato dai fatti molto noti influenzerà in qualche modo anche la politica dei saldi, anche se i saldi estivi beneficiano soprattutto in certe città di turismo dell'apporto, della presenza dei turisti. Non si parte da Roma senza avere acquistato qualche cosa della moda italiana, insomma, e quindi questa è una grossa aspettativa. I dati del nostro ufficio studi Confcommercio hanno stimato in 3,6 miliardi di euro complessivamente il valore dei saldi estivi. Quindi un'incidenza rispetto al fatturato globale che i negozi fanno durante l'anno è un 12%. Noi confidiamo che questa cifra si possa, è notevolmente inferiore all'altro anno, ma comunque rappresenterebbe una boccata d'ossigeno. I prezzi sono particolarmente convenienti perché pur di vendere oggi il commercio ha ridotto al minimo un ricarico che è pura sopravvivenza. E pertanto, insomma, il consumatore ha la possibilità di trovare delle cose interessanti, ancora delle taglie piuttosto diffuse, quindi non soltanto le taglie estreme, e anche degli assortimenti interessanti. La stima per famiglia è calcolata intorno ai 240 euro e circa il 40% delle famiglie italiane con entità più o meno voluminose, insomma, si calcola che approfitterà delle vendite a saldo. Sia le famiglie che acquistano cose di base, diciamo le famiglie monoreddito, che vedono nel momento dei saldi la possibilità di acquistare con un congruo sconto che va dal 30 al 50%, sia coloro che insomma vogliono acquistare prodotti di brand, di marchio noto e quindi diciamo gli acquirenti della fascia alta del consumo. Dottor Polidori, ogni anno c'è la consueta polemica perché le date che stiamo indicando in questa trasmissione sono le date della partenza della stagione degli sconti ufficiali, no? Quelle che vengono definite su base regionale, però come sappiamo bene in molti negozi già si è aperta la pratica della danza dello sconto, che qualcuno mi ha definito anche un po' sottobanco. È una pratica nota, quest'anno proprio grazie alla crisi o a causa della crisi si è rafforzata, alimentando anche un po' la rabbia di quella parte della vostra categoria che questa prassi non la condivide affatto e non la applica, cioè l'apertura, diciamo, della stagione dello sconto molto prima del previsto. In realtà quest'anno forse molti negozi hanno dovuto farla, hanno dovuto, come dire, fare promozioni in anticipo verso la clientela proprio per gestire in qualche maniera le conseguenze della crisi. Da questo punto di vista, quest'anno qual è stata appunto la situazione? Purtroppo si verifica, dobbiamo vedere non solo quest'anno ma già dall'altro anno, che il fatto che molti con escamotage di vari tipi anticipino, diciamo, quelle che sono le vendite di fine stagione. Il legislatore le chiamò, nella legge sono così indicate, vendite di fine stagione, per significare che questa particolarità delle vendite nei negozi in questo momento è rappresentata dalla coincidenza di interessi tra un negoziante che non vuole portarsi all'anno successivo la moda primavera-estate del 2009, quindi non la vuole portare al 2010 per un insieme di ragioni, anche perché la moda cambia nei colori, nelle fogge, diciamo, e anche perché ha interesse a incassare, a pagare i suoi debiti, i suoi fornitori, le sue banche, eccetera. Ora, queste vendite di fine stagione in realtà dovrebbero, se le parole hanno senso, avvenire, diciamo, avanti nella stagione primavera-estate, anche se quest'anno stiamo vedendo che il clima non si capisce bene quando è iniziata l'estate e quando sì, infatti, ci sono queste. Dobbiamo anche affrontare ritorni. Queste problematiche. Allora, ecco, che allora la legge prevede però che ci siano delle sanzioni, e quindi sono usciti anche sui giornali gli inviti stranamente da parte delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori che i comuni facciano applicare quel sistema sanzionatorio che è piuttosto preciso, e che quindi coloro che con escamotage di vario tipo, le SMS o gli inviti alla clientela ad anticipare i saldi rispetto al giorno fissato per legge, oppure banalmente viene praticato lo sconto alla cassa quando l'acquisto sì. È già stato fatto senza comunque. Ora, guardi, praticare uno sconto non è che sia vietato. Esatto, infatti poi sarei arrivata lì. Qual è il problema? Voglio dire, bisogna gestire la crisi in qualche modo, questa è una delle soluzioni possibili. Perché non vi stanno bene queste cose? Ma non ci stanno bene perché noi come Federmoda Italia, Confcommercio, invochiamo da anni il ritorno ad una legislazione unitaria su tutto il territorio nazionale. Non vediamo questo mosaico, addirittura in alcune regioni da provincia a provincia o da comune a comune si hanno date diverse nel Trentino, provincia di Trento, che è un assurdo, una confusione per i consumatori. Sì, Trento è stata anche una questione abbastanza particolare, noi ne abbiamo anche parlato, perché qua per la prima volta i saldi estivi, grazie ad una recente legge provinciale, sono partite con nuove regole di liberalizzazione. È stata una questione abbastanza particolare quella di Trento, Polidori. Sì, ma allora facciamolo su tutto il territorio nazionale, cioè se così è, se non si riesce a stabilire una data unica di inizio e durata dei saldi su tutto il territorio nazionale, il che significherebbe avere una normativa univoca e quindi la possibilità per tutta Italia di avere norme certe, allora se non si riesce a far questo, a sanzionare i cosiddetti furbi o i trasgressori, allora si abolisca la normativa sui saldi e ogni azienda se li gestirà come crede, insomma. Però noi siamo alla ricerca di norme certe, quindi stiamo facendo pressioni anche sulla conferenza Stato-Regioni, ma anche in sede del Parlamento nazionale con parlamentari vicini al settore che, insomma, prendano in mano questa situazione, perché la gestione di questo caos non fa bene né al consumatore né tutto sommato al sistema delle vendite. Noi vogliamo che i saldi, le vendite di fine stagione siano veramente un'occasione di incontro tra consumatore e venditore. È un tema del quale torneremo sicuramente a parlare. Intanto, Presidente Polidori, anzi Vicepresidente, nella stagione dei saldi si sprecano le raccomandazioni verso i consumatori per il corretto acquisto degli articoli in saldo, perché lì anche in qualche caso dobbiamo un po', non dico difenderci, ma insomma gestire correttamente la trattativa con il commerciante. Allora diamo qualche regola di base, insomma, qual è anche il vostro decalogo che avete stilato in occasione delle campagne promozionali di questo periodo? Voi avete attivato l'iniziativa Saldi Chiari, in altre parti del territorio nazionale sì, l'iniziativa si chiama Saldi Trasparenti o Saldi Tranquilli, e il vostro vademecum in qualche maniera corrisponde anche a quello che è indicato dalle associazioni dei consumatori. Io le faccio qualche domanda, per esempio, è vero che in saldo la merce non si può cambiare? Se per esempio un capo non ci sta bene, lo scopriamo a casa? No, il capo si può cambiare non per capriccio, diciamo, si può cambiare se effettivamente, non so, la taglia non era quella indicata, oppure c'è un colore difforme da quello che era indicato, o delle caratteristiche, o meglio se siamo di fronte a vizi o difetti che non apparivano nel momento dell'acquisto. Pertanto, a parte il fatto che noi diamo disposizione ai nostri associati che per atto di cortesia il cambio possa sempre avvenire, purché fatto in un tempo ragionevolmente lecito, nel senso che se mi viene dopo un mese dai saldi, no, perché è chiaro che il commerciante deve cercare di rivendere, certo, quel capo che è stato riconsegnato. Credo che il buonsenso debba guidare l'azione di tutti, naturalmente. Sì, anche il fatto di provare i capi, tranne diciamo i capi di biancheria intima, cioè, insomma, quello normalmente viene fatto. L'accettazione delle carte di credito, perfetto, che per il commerciante sono comunque un piccolo costo, normalmente durante i saldi si preferiva il pagamento contanti, ebbene si prende atto che le carte di credito che sono accettate dal negozio, sono elencate all'entrata del negozio, quelle debbono essere accettate. Noi abbiamo in più a Roma, nel Lazio, ma anche in altre città d'Italia, costituito un comitato per la risoluzione di, a livello di conciliazione di eventuali controversie che potessero nascere, e questo sarà fatto gratuitamente con un accordo che abbiamo fatto con le associazioni dei consumatori. E noi ne abbiamo già parlato anche in un'altra puntata, non di Soldi Dintorni ma di Salvadanaio. Presidente Polidori, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buoni saldi. Naturalmente, prego, torneremo magari a sentirvi per capire quali sono stati i risultati della campagna di quest'anno. Alessandro, obbligazioni all'Italia oggi a Salvadanaio. È aumentato, benissimo, il rimborso proposto dallo Stato e oggi cercheremo di capirne qualcosa di più. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: il pacchetto sicurezza da ieri è legge dopo l'approvazione definitiva del Senato. Tra le novità più importanti introdotte, la clandestinità diventa reato, vengono legalizzate le cosiddette ronde, ma ne parleremo tra pochissimo. È salito a 20 il numero delle vittime dell'esplosione della stazione di Viareggio. Nella notte è morta una donna che era ricoverata all'ospedale di Carrara. Oggi il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza, mentre stamattina la stazione è stata riaperta al traffico. Benzinai in sciopero per 2 giorni, saranno chiusi l'8 e il 9 luglio, uno sciopero indetto contro le compagnie petrolifere che secondo i benzinai non rispettano le regole e contro il governo che dicono non mantiene gli impegni. Infine, lo sportivo che guadagna di più al mondo è il golfista Tiger Woods, con 100 milioni di dollari incassati lo scorso anno, secondo la classifica di Sports Illustrated. Tra gli sportivi non americani, al 5° posto c'è Valentino Rossi, con 35 milioni di dollari guadagnati. Tutto questo alle 8:32 minuti. Il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Come sapete, come avete sentito, dunque il pacchetto sicurezza è legge. Ci sono tante novità, alcune più di altre guadagnano i titoli dei giornali. Sicuramente quella che la guadagna di più è il fatto che è diventato reato e essere clandestini è il punto più controverso che ha creato più polemiche. Chi entra o soggiorna illegalmente in Italia commette un reato punibile con un'ammenda da 5 a 10 mila euro. Sarà istruito anche un processo davanti al giudice di pace che lo espellerà per direttissima. Ma poi è il provvedimento quello che legalizza e regolamenta le cosiddette ronde. E poi c'è anche altro. Io voglio salutare due esponenti politici. Il senatore Sandro Mazzatorta, buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Della Lega Nord e anche sindaco di Chiari, in provincia di Brescia. E saluto l'onorevole Luca Orlando, che è il portavoce nazionale dell'Italia dei Valori. Onorevole Orlando, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora, Mazzatorta, Berlusconi ha detto una legge voluta fortemente da me. In realtà credo che sia un provvedimento soprattutto voluto e ricercato dalla Lega, no? Sì, voi da mesi vi siete battuti. Le chiedo questo sul punto più controverso che ha fatto più discutere, quello della clandestinità che diventa reato. Allora, le faccio prima una domanda molto secca. Siccome è stato specificato che i cosiddetti medici spia, come erano definiti, o presidi spia, cioè che non ci sarebbero denunce per chi va a curarsi, per il clandestino che va a curarsi o per il clandestino che scrive il figlio a scuola, è davvero così? Perché lei in passato ha detto, attenzione, lei è anche avvocato, se c'è una legge di reato di clandestinità un pubblico ufficiale è tenuto a rispettarla. Allora, è scongiurata l'ipotesi di medici spia o presidi spia? Allora, la versione versione che era uscita dal Senato nella prima lettura prevedeva la cancellazione dell'obbligo, del divieto di segnalazione da parte dei medici del pronto soccorso. Poi la Camera ha cancellato questo nostro emendamento e attualmente quindi la legge consente ai clandestini di potersi curare senza segnalazione da parte dell'autorità sanitaria, quindi ha ripristinato la situazione precedente alla prima versione del disegno di legge sicurezza e consente l'iscrizione ai servizi scolastici obbligatori. Queste sono le uniche due eccezioni per chi è privo di un titolo di soggiorno per poter accedere, diciamo, ai pubblici servizi, servizi sanitari e servizi scolastici obbligatori. Senta, ma cos'è? È una norma che almeno per quel che riguarda il reato di clandestinità è una norma quasi manifesto, nel senso, non c'è, avrà letto anche gli articoli oggi Carlo Federico Grosso sulla Stampa, dice, ma insomma questo rischia di ingolfare i procedimenti davanti al giudice di pace e poi tutte le procure che dovranno iscrivere questo reato. Guardi, in realtà il problema è questo: se c'è una norma manifesto, una posizione manifesto, è la posizione culturale della sinistra, che dice in sostanza che lo straniero che entra illegalmente in questo paese senza rispettare le regole di ingresso non è un comportamento questo che ha un disvalore, una offensività, ma è solo l'espressione della condizione di migrante. Questa è la posizione culturale della sinistra, da cui poi derivano tutte le altre posizioni tecnico-politiche, eccetera. In realtà noi diciamo, come dicono tutti i paesi dell'Unione Europea, che entrare in questo paese senza rispettarne le regole di ingresso, in totale spregio delle frontiere, significa porre in essere un comportamento che ha un disvalore, che ha un'offensività e che deve assurgere a rilevanza penale. Così abbiamo fatto, ripeto, ma questo è già sancito, è già ai paesi europei, alla Grecia, alla Francia, alla Gran Bretagna, alla Germania. Ma scusi, ma questo è già sancito, il fatto di entrare illegalmente, c'è la legge Bossi-Fini in vigore, prevede l'espulsione dopo la permanenza. Sì, ma in questo paese questa violazione delle regole d'ingresso, come dice testualmente sia il famoso appello dei giuristi contro il reato, sia il segretario del Partito Democratico nella sua dichiarazione di voto alla Camera, non è un comportamento deviante, non è un comportamento da reprimere, è una espressione della condizione di migrante. In sostanza il migrante è una sorta di diritto soggettivo ad entrare e uscire a suo piacimento in questo paese. E questo reato finalmente si dà un segnale anche chiaro, certo anche un valore simbolico un reato, ma questo è notorio, no, che ci sia, serve che anche, come dire, a stigmatizzare un comportamento, a far capire che quel comportamento è vietato. Che ci sia un valore simbolico, no, ma infatti lei lo ammette, voglio dire, onorevole Orlando, Luca Orlando, l'Italia dei Valori ieri, lei alla Camera, non è al Senato, ma l'Italia dei Valori, insomma, vi siete messi in evidenza per una contestazione molto dura, su che cosa, soprattutto su questo punto della clandestinità, non vi piace questo pacchetto? L'Italia dei Valori è convinta che la sicurezza sia un diritto ed è un diritto che deve essere garantito nelle forme più efficaci e deve essere garantito con un ruolo fondamentale da parte degli organi dello Stato. La nostra protesta contro questo cosiddetto pacchetto sicurezza è perché si trasforma un diritto in uno spot. Ci potremmo confortare pensando che si tratta di spot inefficaci o di spot incostituzionali, perché sicuramente la Corte Costituzionale non potrà che sindacare questa illegittimità. Però il dramma è che siamo di fronte a uno spot che genera mostri, genera il mostro dell'insicurezza, creando la convinzione dell'immigrato per definizione come un nemico e come un criminale, mortifica le forze dell'ordine, affidando in un appalto improprio la sicurezza ad ronde private. Allora il tema di fondo è che si utilizza un diritto che c'è, che noi vogliamo difeso e che la Costituzione vuole sia difeso, come un pretesto che genera mostri. Venendo al tema dell'immigrazione clandestina, l'immigrazione clandestina ormai è previsto che sia un reato. Essendo previsto che sia un reato, c'è una sostanza di fondo. L'immigrato, il quale si rivolge alle strutture sanitarie o a quelle scolastiche, o comunque si rivolge a strutture pubbliche che garantiscono diritti universalmente riconosciuti, è soggetto a una condizione di subalternità, perché chiunque ne abbia l'obbligo o non ne abbia l'obbligo, può utilizzare questo suo ricorso a strutture pubbliche, la sua condizione di reato, per ricattarlo, per minacciarlo, per costruire in parallelo all'esistenza di un sistema servizio sanitario nazionale un sistema di medici stregoni o di stregoni medici, cioè di persone che sostanzialmente finiscono con il curare soggetti che sono in una posizione di debolezza, perché esposti al rischio di essere denunciati, perché comunque sono in una condizione che questa legge definisce. Però le voglio chiedere, Orlando, mi scusi, oggi il ministro Maroni in un'intervista a Gianluigi Paragone sul Libero dice, perché il provvedimento prevede tante cose, tra cui anche norme molto dure per il contrasto alla mafia, dice Maroni, vorrei proprio capire dalla sinistra perché non hanno voluto queste norme volute fin da Falcone. Se io fossi in malafede, dice Maroni, potrei dire che siccome hanno votato contro queste norme antimafia, allora è come se stessero dalla parte dei mafiosi, ma siccome sono una persona seria non lo dico, però mi devono rispondere sul perché hanno bocciato le norme di Falcone e perché boicottano la lotta alla mafia. Era tutto da buttare, secondo lei, questo provvedimento o queste norme antimafia? No. No, ma il tema di fondo non riguarda la singola norma, riguarda l'impianto complessivo, che ogni, di cui la singola norma è un tassello. Facciamo un esempio di lotta alla mafia, perfettamente. Parliamo delle ronde. Questo governo, questa maggioranza ha tagliato le risorse alle forze dell'ordine, ha tagliato le risorse alla magistratura, ha sostanzialmente indebolito gli organi che secondo Costituzione devono occuparsi del bene fondamentale che è la sicurezza, che in tutti i paesi democratici si affida certamente alle istituzioni dello Stato. Se nasce lo Stato, nasce essenzialmente per garantire la sicurezza dei cittadini, per evitare che i cittadini la sicurezza se la procurino da sé. Fatta questa premessa, si pensa alle ronde, potremmo fare riferimento. Però queste norme antimafia ci sono, cioè sì, su questo. Chi è che organizzerà le ronde a Casal di Principe? E chi organizzerà Corleone? Organizzeranno certamente gli amici con la fedina penale pulita di Casalesi o dei Corleonesi. Come si fa a non comprendere che nel momento in cui si delegittimano le forze dell'ordine si alimenta anche qui una forma di sicurezza affidata agli stregoni? Avremo i medici stregoni, avremo gli insegnanti stregoni e avremo i poliziotti stregoni. Le ronde, Mazzatorta, questo è un altro punto, la questione delle ronde, molte controverse. Il ministro Maroni, quando è andato a Pontida, che ha detto, volete chiamarle, no, chiamiamo le ronde, però in realtà ronde non è una parola che è scritta nella legge. Il testo, tra l'altro, lo trovate oggi tutto sul Sole 24 Ore. Senatore Mazzatorta, è un'altra norma un po' simbolica questa delle ronde, oppure che... No, abbiamo semplicemente anche qui voluto dare una cornice normativa ad un fenomeno che è ampiamente praticato nei nostri comuni, che addirittura è riconosciuto da molte leggi regionali, e si basa sul concetto della sicurezza partecipata, cioè della collaborazione dei cittadini con le forze di polizia locale e con le forze dell'ordine. La norma è molto chiara, tra l'altro anche molto precisa, dice che i sindaci possono avvalersi di questo contributo da parte di queste associazioni di volontari, quindi è una facoltà del sindaco. Chi le controlla a Casal di Principe? È una responsabilità politica di quello che fa. Chi le controlla a Casal di Principe? I cittadini potranno giudicare. Chiede Orlando, chi le controlla a Casal di Principe o a Corleone le ronde? Ma o che la ronde norma saranno? Prevede addirittura una iscrizione di queste associazioni in un elenco prefettizio con la vigilanza del comitato provinciale sull'ordine e sicurezza pubblica. Se vogliamo, forse l'unica critica che possiamo fare a questa norma è che è eccessivamente rigida, lo dico da sindaco, ma alla fine è venuta fuori da un equilibrio complessivo che si è trovato su questa formulazione. Ma assolutamente c'è una garanzia assoluta di controlli, di come dire, anche di qualità dei componenti, che devono essere ex carabinieri, ex poliziotti in congedo. Ora, io capisco tutto, ma dire che le ronde sono associazioni di stampo mafioso mi sembra un po' eccessivo. Lei le farà nel suo comune? Le accetterà? Io le ho già fatte, ma guardi che in provincia di Brescia gran parte dei comuni, a volte anche comuni guidati da sindaci di centrosinistra, si avvagano di questa forma di collaborazione. Ripeto, fa parte del concetto di sicurezza partecipata, che una volta era il cavallo di battaglia della sinistra, la sicurezza partecipata, poi l'hanno dimenticato e messo in un cassetto. Orlando, io ho un minuto per chiudere, ma come, l'Italia dei Valori è il partito, anche con Di Pietro, che ha fatto della sicurezza, fa della sicurezza, seppure da sinistra, uno dei propri emblemi da difendere. Ma il tema di fondo è che noi siamo un partito che si connota, si caratterizza per il suo impegno per la legalità dei diritti, e la la sicurezza è un diritto, ma i diritti sono anche i diritti della persona umana, il diritto dell'immigrato di essere, prima ancora che considerato un criminale, di essere identificato, monitorato per verificare se per caso non ha invece diritto, anche questo un diritto, alla normativa internazionale che un paese civile dovrebbe recepire e rispettare, che l'asilo politico o quant'altro previsto dalle norme internazionali. Noi confidiamo sul fatto che queste norme verranno dichiarate incostituzionali, perché una cosa è certa, non avremo nessuna preoccupazione sulla imparzialità della Corte, perché nessun giudice della Corte Costituzionale andrà certamente a cena con un immigrato clandestino. Ah, doveva fare la sua graffiata finale, eh? Mi devo fermare qui però, puntate dunque all'incostituzionalità di queste norme. Ringrazio Leo Luca Orlando, portavoce dell'Italia dei Valori, così come il senatore Sandro Mazzatorta, che è anche sindaco di Chiari, Brescia, esponente della Lega Nord. Le 8:48 minuti, e allora, come detto, gli assistenti dei parlamentari, o volgarmente portaborse, le Iene, scoprirono che ce ne sono tantissimi che lavorano in nero per i nostri deputati onorevoli, per alcuni di loro ci fu uno scandalo, eccetera. Tra l'altro il presidente Schifani del Senato e il presidente della Camera Fini ha detto basta, bisogna regolarizzare tutto. Sentiamo per esempio cosa disse Schifani, sempre ovviamente alle Iene. Ma guardi, questa è una vecchia storia che purtroppo si trascina da anni. Adesso, in questi giorni, noi stiamo discutendo in commissione analoga legge. Ho già dato l'autorizzazione a farla approvare senza che passi dall'aula, quindi tempi molto brevi, per regolamentare una volta per tutte questo aspetto. Istituisce l'albo, prevede diritti, doveri, funzioni, regole contrattuali, da limite orario minimo e massimo, la retribuzione finalmente viene individuata. Questo disse e poi aggiunse, questo era ad aprile, disse dal 1 luglio non, porte chiuse, proprio Senato e Camera chiusi a chi non ha gli assistenti parlamentari che non sono contrattualizzati. Voglio salutare il senatore Lucio Malan, buongiorno. Buongiorno. Lei è segretario di presidenza al Senato e Popolo della Libertà. Oh, abbiamo letto ieri su Libero che questa data è passata e sono 225 i deputati o senatori che hanno regolarizzato tutto, mentre ce ne sono 405 che ancora non hanno messo in regola il portaborse. Direi che appunto ce ne sono 225 che probabilmente erano già in regola, sì, prima, e che hanno portato la documentazione. Altri io ritengo che siano in regola ma non hanno ancora portato la documentazione, altri stanno mettendosi in regola, perché è il 1 luglio, qualunque però ascoltatore saprà, come qualunque ascoltatore saprà, non è così semplice stabilire un contratto di lavoro nel nostro paese, e in particolare quando lo si fa per la prima volta per una professione così anomala come del collaboratore, del parlamentare. Io dico, quindi, 1 luglio è passato, però naturalmente chiamati portaborse, sì, perché siccome lavorano per un parlamentare non devono essere rispettati. Siccome io le borse me le porto da me, e credo che pressoché tutti i miei colleghi si portano le borse da sé, i loro collaboratori sono persone, sì, che fanno ricerche, che fanno, che, ma sì, volgarmente portaborse sarebbe come chiamare l'infermiere che vi fa delle delicate pratiche mediche o aiuta il chirurgo in sala operatoria, chiamarlo portantino. Sì, un giorno avevo ospite il presidente dell'associazione degli assistenti parlamentari, ha detto è come se io chiamassi lei, invece che giornalista, radio amatore, ecco, invece che giornalista in radio. È una parola gentile, sì, non vabbè, è, io però non è un altro, perché non si debbano rispettare delle persone. Qui non si tratta di trovare degli eufemismi, perché se uno portasse davvero le borse, va bene, si chiama ma adesso sì, ma voglio dire, poi i radioamatori mi hanno anche scritto, i radioamatori mi hanno anche scritto offesi loro, guardi che essere radioamatore, ma no, ma non c'è niente, sì, in siamo entrati in una serie di equivoci incredibili. È una parola semplicemente scorretta, sarebbe come chiamare chiamare automobilista uno che va per boschi, insomma, vabbè. Detto questo, però è il 3 luglio, senatore Malan, è il 1 luglio, ha detto Schifani, non entrano più, siamo al 3 luglio. Adesso non è che vogliamo essere qui con le regole spaccate al minuto, ma siccome è una cosa che, come ha detto il presidente Schifani, si trascinava da anni, com'è possibile che ci siano ancora persone non in regola? Guardi, se le norme spettassero unicamente al presidente Schifani, la cosa potrebbe, ci potrebbe stare in un certo senso, ma questo coinvolge diversi organismi del Senato e ad oggi, che è il 3 luglio, è da 3 giorni in vigore il nuovo regolamento. Il nuovo regolamento è in vigore a tutti gli effetti, poiché però la disciplina di accesso ai palazzi del Senato e a quei servizi che sono inerenti al lavoro del portaborse, come lo chiamate voi? Come lo chiamate voi? Io mi piace insistere, poi potete chiamarci parassiti noi, per esempio, va molto bene. No, per carità, no. Perché questo, se il rispetto quello è qualunquismo, quello è qualunquismo. A chi lavora nel Parlamento, allora andiamo avanti di questo passo e poi ci si stupisce se la gente va a votare di meno. No, ma quello è qualunquismo. Che allora dicevo, se il tesserino che dà accesso a questi servizi non può essere cambiato da un giorno all'altro e di conseguenza i vecchi tesserini valgono fino al 30 settembre, o per la precisione al 29 settembre. Cioè, un problema di tesserini. Saranno validi solo i nuovi tesserini, che per chi non aveva i tesserini vecchi già oggi devono essere... per ottenerne uno nuovo bisogna avere la documentazione come prevista dalla delibera degli organi del Senato. Invece dal 30 settembre bisognerà per forza avere i tesserini nuovi. In realtà sono prorogati i tesserini vecchi ma non le regole vecchie. Sì. Ma mi scusi, senatore, è normale che uno ci si fosse adeguato prima. Sì. Il Senato sta offrendo, tra qualche giorno offrirà anche una consulenza per questa attività particolare, perché non è equiparabile a nessuna altra attività, anche perché ci sono esigenze molto varie. C'è chi ha la più classica dei servizi di segreteria, rispondere al telefono, scrivere testi al computer, altri invece che hanno bisogno di ricerche, consulenze. Però mi scusi, senatore, senatore, e così via. Sì. Senatore, allora il problema, mi pare di capire, è anche di come contrattualizzarli, perché sono appunto caratteristiche. Però voglio dire, non è che uno, siccome non si sa che tipo di contratto farlo, cioè lavorano in nero alcuni. Lei mi può giurare che non c'è un assistente parlamentare in nero in questo momento che lavora per un suo collega? Ma io non posso assolutamente giurare questo, ma le posso giurare che questa non è responsabilità del Senato, è responsabilità del singolo lavoratore. Beh, ma questo è del singolo senatore. Se in un condominio c'è qualcuno che tiene una colf in nero, la responsabilità non è dell'amministratore del condominio. Ma d'accordo, ma no, infatti, singolo, ma certo, che lo fa. Ma guardi, io non sto infatti incolpando il Senato, voglio dire. Viene investito della cosa, può preoccuparsi, cercare di fare in modo che per accedere a determinati servizi del condominio uno deve dimostrare che la sua collaboratore domestico è in regola, però è il dovere è di qualcun altro. Ma questo sì, però senatore, la responsabilità è del singolo. Però io non so cosa si direbbe se noi controllassimo la regolarità dei contratti dei giornalisti che vengono a svolgere la loro attività presso il Senato. Credo che si parlerebbe di attentato alla libertà di stampa. Guardi. Questo intervento lo stiamo facendo dopo 61 anni che esiste il Senato della Repubblica Italiana. Il Senato in genere è molto più vecchio. Dopo 61 anni noi in 2 mesi e mezzo abbiamo fatto entrare in vigore il nuovo regolamento e dopo altri 2 mesi sarà a tutti gli effetti applicato con la distribuzione dei modelli. Guardi, noi staremo a monitorare la situazione. L'unica mia perplessità era da dire, siccome non si sa come contrattualizzarli, ci sono difficoltà e quindi ci sono consulenti del lavoro. Però voglio dire, uno che lavora in nero sicuramente non va bene, ecco. Non è che ci si può difendere con la difficoltà anche di contrattualizzarlo in qualche modo. Comunque io mi devo fermare, senatore Malan, la ringrazio, terremo aggiornata la questione. Ringraziamenti anche tutti in redazione, ci sentiremo lunedì con 24 Mattino, e ora la linea passa a Oscar Giannino.